Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Se avete uno specchio a portata di mano è il momento di tirarlo fuori, se non ce l'avete non importa, andrete a memoria, va bene ugualmente. Ma state pronti a darmi informazioni sull'attaccatura dei vostri capelli, sul loro colore anche. Recuperate qualche info sulla vostra zona perioculare e poi, se questo non vi richiede troppo sforzo, spostate la vostra attenzione sulle orecchie. Strano inizio, vi direte, per una puntata in cui si parla di cibo. Giovedì è dedicato a Mangia con me. Voi avete ragione, ma datemi un po' di tempo e scoprirete che una relazione c'è. E c'è naturalmente anche il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. In effetti è un inizio che sembra un po' strano, però in realtà non lo è poi più di tanto, perché a tavola abbiamo detto tante volte che si possono trovare molte risorse, molte soluzioni per invecchiare meno. E tornando a quello che hai appena accennato, cioè a quello che vediamo allo specchio, perfino una ricerca pubblicata pochi giorni fa ci spiega che alcuni segni evidenti, quelli che noi vediamo allo specchio dell'invecchiamento, soprattutto del volto, rispecchiano davvero quello che accade nel nostro organismo in modo molto chiaro, e queste caratteristiche di cui parlavi, in particolare la stempiatura, la perdita di capelli in generale, la comparsa di una particolare ruga sul lobo dell'orecchio, gli scienziati hanno notato che sono molto correlati con una maggiore e peggiore salute cardiocircolatoria. Quindi invito anch'io gli ascoltatori a osservarsi molto attentamente, a descriverci i cambiamenti che sono avvenuti sul loro volto e a chiamarci. Perché oltre alla stempiatura, la piega del lobo, in verticale, orizzontale, com'è questa piega? Me lo stanno già credendo. È una piega orizzontale che taglia in sostanza il lobo. Quindi un lobo. E in effetti se uno nota, Nicoletta, parecchie persone ce l'hanno dopo una certa età. Adesso li guarderò. Io non riesco a guardarmi, ma sento l'orecchino. Vado a vedere. Comunque, voi diteci se avete cambiato qualcosa nel vostro viso. Abbiamo portato la nostra attenzione alla stempiatura, anche alla zona perioculare, dottor Ongaro, che è citata nella ricerca. Sì, assolutamente. Quella è forse più naturale, no? Perché è una delle prime zone a modificarsi per la presenza delle rughe, è una di quelle insomma più note e anche più combattute e temute, in particolare dalle donne, ma non solo, anche dagli uomini. Ma non solo nel viso, scendiamo. Qualcosa è cambiato negli anni, magari è venuta la pancia, o forse con gli anni ci siamo asciugati. Si è un po' modificata la postura. Insomma, qual è la parte del vostro corpo che con gli anni è cambiata? 800 24 0024, potete naturalmente seguirci su Facebook e su Twitter. Dottor Ongaro, però è anche vero che c'è chi invecchia bene e chi invecchia un po' meno bene. È questione di geni o c'è dell'altro? Ma io non direi che ci sono persone che invecchiano bene e persone che invecchiano meno bene, cioè questo è il modo in cui generalmente noi descriviamo il problema, però in realtà le persone che noi identifichiamo come quelle che invecchiano meglio sono quelle che in realtà invecchiano meno. Meno, quindi bisogna riformulare proprio la frase. Direi di sì, perché in realtà l'approccio che noi abbiamo all'invecchiamento è un po' particolare, quindi anche il linguaggio con cui lo descriviamo in realtà rappresenta in maniera poco precisa quello che oggi sappiamo dell'invecchiamento sul piano scientifico, cioè in realtà la persona che tu vedi così esteticamente, esteriormente, come quella che è invecchiato meglio, dici guarda che bene che porta gli anni, in effetti è invecchiata meno, cioè se ha meno rughe, se ha i capelli meno bianchi, se ha un fisico più atletico, più muscoloso e meno grasso, è perché sono successi meno di quei processi classici che portano all'invecchiamento delle cellule, dalla cellula al tessuto, dal tessuto all'organo e poi fino a colpire, diciamo, l'estetica, quindi la parte visibile del nostro organismo. Naturalmente, però si invecchia meno, ma si invecchia. Allora, su questo credo che è meno male, perché non ci siano dubbi, esatto, è un processo biologico che inizia. Anche questo è abbastanza interessante, noi pensiamo all'invecchiamento come qualcosa che inizia, non lo so, a 60 anni, no? Ma in realtà La vita è una retta che va in una direzione, quindi di fatto l'invecchiamento inizia al concepimento stesso, quindi è un processo caratteristico di un organismo vivente e quindi sì, meno male che c'è, fa parte della nostra vita, però è anche un processo che è molto strettamente collegato con delle malattie e quindi non è del tutto futile l'idea di lavorare sull'invecchiamento e di cercare di prevenire e rallentare questo fenomeno, perché di fatto a questo fenomeno sono poi associate le grandi malattie che infatti iniziano a colpirci dai 60 ai 70 anni in poi, insomma. Quindi agli ascoltatori che mi stanno scrivendo, ma da che età bisogna iniziare a guardare questi segni? Da subito. Dottor Ungaro. Diciamo che da subito, insomma, che un neonato si mette a guardare i segni di invecchiamento sarebbe un po' esagerato, però diciamo che c'è un certo tipo di cambiamento che comincia a essere anche visibile, lo possiamo collocare dopo i 40 anni, insomma tra i 35 e i 40 anni sicuramente qualche iniziale segno di deterioramento anche della funzionalità, mm-hmm. Pensiamo a dei test da sforzo per esempio, sì. Quindi dei test che misurano le capacità atletiche e fisiche delle persone, ovviamente dopo quell'età lì insomma si tende a iniziare a peggiorare nella propria prestazione fisica, quindi una buona età in cui iniziare a preoccuparsi di come prevenire l'invecchiamento, di come invecchiare meglio è sicuramente tra i 35 e i 40 invecchiare anni. Invecchiare meno? Sì, adesso ho commesso l'errore di cui quindi, ho parlato prima. Quindi qual è la parte del vostro corpo che con gli anni è cambiata? Rimaniamo a, naturalmente parliamo di corpo, di mente, di aspetto fisico, anche di una sorta di mancanza di energia, di entusiasmo, tutti questi certo. Sono segni di un deterioramento che è il prodotto della combinazione di più fattori, dottor Ungaro. Sicuramente ce ne sono molti di fattori e devo dire che probabilmente gli scienziati non sono ancora arrivati a definirli e declinarli tutti, non è che dell'invecchiamento si sappia ancora tutto, quindi certo ci sono degli aspetti genetici, poi ci sono dei fenomeni che sono più noti anche perché sono diventati un po' parte del nostro linguaggio comune, per esempio lo stress ossidativo e la presenza dei radicali liberi è sicuramente uno di questi. E a proposito di radicali liberi, che tutti noi conosciamo, il dottor Ungaro voleva proporci un quiz. Sì, perché se ne parla molto di radicali liberi e se ne parla spesso anche sui media, si vedono molti prodotti che sono indirizzati a combattere lo stress ossidativo, allora è interessante sapere dai nostri ascoltatori cosa sono esattamente questi radicali liberi. Allora, proponiamo tre risposte, che sono tossine che assorbiamo dall'ambiente, sono molecole instabili prodotte dai mitocondri che danneggiano le cellule o sono dei conservanti alimentari dannosi? 800 24 00 24 per rispondere a questo quiz, ma oggi la puntata è dedicata a tutti voi che volete provare a invecchiare meno e volete sapere come farlo, magari scegliendo un nuovo stile alimentare, uno stile alimentare che si avvicina a quello proposto da Mangia con me in tutte queste puntate. Il quizzettone ho pensato che di abbinarlo ad un libro che sto leggendo perché sto pensando di trasformarlo poi nel tema di una puntata. È un libro che mi piace molto di Daniel Pennac, Storia di un corpo, e nella quarta di copertina c'è scritto un romanzo fortemente raccomandato a tutti quelli che hanno un corpo, per cui se avete un corpo componete l'800 24 00 24, potete provare a rispondere al quizzettone e anche noi, sentendo la vostra risposta, impareremo qualcosa di più di questi famosi radicali liberi. Saranno loro a invecchiarci? Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone. Forse abbiamo bisogno di un aiuto dal dottor Ungaro per rispondere correttamente al quizzettone che ha scelto per noi, ma questa è anche la canzone che gli Alti e Bassi hanno dedicato a Laura, una degli 8 partecipanti della seconda edizione di Mangia con me, e Laura è in linea con noi. Ciao Laura, benvenuta. Sì, ciao Nicoletta, ciao a tutti. Laura, 3 settimane dopo, perché anche questo è un cambiamento. Da quando è iniziato, che cosa è successo? Guarda, è un cambiamento molto grande, perché ho eliminato dalla mia cucina un sacco di cose che prima utilizzavo e ne ho introdotte delle altre. E devo dire che al di là, vabbè, della diminuzione di peso, che non è significativa, però ho cominciato a mangiare diversamente e effettivamente dopo queste 3 settimane devo dire che io mi sveglio la mattina e mi sento leggera. Una cosa impressionante per me, mi sveglio la mattina e ho fame. Questo è, secondo me, un segnale fortissimo del cambiamento. Infatti. Sicuramente mi sento meglio, sicuramente introduco, diciamo, nell'alimentazione mia, di mio figlio e di mio marito, dei cibi che non utilizzavo assolutamente, e stiamo veramente cambiando tutti insieme. Fantastico, ma dottor Ongaro, è straordinaria. Sì, è straordinaria, però nell'essere straordinario devo dire che è anche abbastanza comune, nel senso che io osservo in molti dei nostri ascoltatori, ma anche nei miei pazienti o nei lettori dei miei libri, proprio questo cambiamento che si estende alla persona che ha preso l'iniziativa fino a contagiare un po' tutti quelli che stanno attorno, e questo è un segno molto positivo, e questo anche fa la differenza tra il cambiare lo stile alimentare di una persona e di una famiglia o il prescrivere una dieta, che a volte deve essere anche fatto per ragioni mediche specifiche, però credo che questo sia un cambiamento più profondo, che non coinvolge solo l'individuo, ma veramente lo stile alimentare di un'intera famiglia. Questo è molto bello. Laura, tu hai fatto un piccolo grande cambiamento in 3 settimane seguendo Mangia con me e mettendo in pratica anche suggerimenti e consigli del dottor Ongaro e di Stefano Polato. Noi oggi parliamo anche di cambiamenti che coinvolgono più anni. Allora, come stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori, qual è il cambiamento che noti negli anni su di te, sul tuo modo di fare, di essere, anche sul tuo fisico? Noi siamo partiti da dei segni che sono sul viso, ma abbiamo pensato di estendere i segni dell'invecchiamento, degli anni che passano, un po' a tutto il corpo, perché ci sono persone che magari con gli anni cambiano forma, che hanno dei cambiamenti della postura o che invecchiano meno, come dice il dottor Ongaro, magari fisicamente, ma si ritrovano con una sorta di rigidità, cambiano il modo di approcciare la vita. Qual è il cambio? Riguardati quando avevi 18 anni, come sei cambiata? Ma è una domanda impegnativa. Sicuramente nella tonicità della pelle, vedo la pelle meno luminosa, vedo la pelle meno compatta in generale. Ecco, questa è la cosa più importante. E poi io, come donna che ha un bambino di 4 anni, devo dire che il grosso cambiamento l'ho visto da prima, dopo il bimbo. Prima e dopo la gravidanza. Sì, per cui rotondità che prima non avevo, ecco. Oltre chiaramente a questi segni del tempo, queste rughe, che però io dico sono anche segni dell'esperienza, di ciò che uno ha vissuto, per cui sono belle anche le rughe. Sì. Laura, continua a seguirci, a scriverci, noi naturalmente ti seguiremo. E oggi a Mangia con me non si invecchia, parliamo di medicina anti-aging, può servire a tutti, quindi grazie Laura per essere stata con noi, continua a seguirci, buona giornata. Grazie a te Nicoletta, ciao. Grazie. Cristina, buongiorno da Livorno, 800 24 00 24, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei, Cristina. Dunque, io ho 37 anni, premetto che non mangio benissimo, nel senso che sono una persona molto golosa e quindi mangio di tutto, soprattutto dolci. Sì. E ho notato notevoli cambiamenti, soprattutto nel mio lobo sinistro. Ho notato, come avete detto all'inizio della trasmissione, delle rughe che sono venute fuori. Sì. Ho notato a 37 anni questo gonfiore sulla pancia che viene fuori. Ma premetto, io sono una persona che mangia estremamente male, pur avendo un marito che mangia benissimo, che è una persona molto attenta, ha un'educazione alimentare perfetta. E lei lo compensa. Io mangio maionese, salame, pane, una cosa impressionante, perché io adoro la tavola. Però noto che nel corso degli ultimi anni, non avendo avuto ancora figli, necessito assolutamente di mettermi a regime, perché sennò rischio a 50 anni di diventare un mostro, ecco. Noto la pelle, noto che... Insomma, gli effetti di un'alimentazione che, come dice lei, Cristina, è completamente scorretta, alla fine si fanno vedere. Cristina è a un passo, dottor Ongaro, dal cambiamento. Si sta rendendo conto che, come lei sottolinea più volte, che quello che noi introduciamo è fondamentale per la nostra salute ed è svolge anche un ruolo, se vogliamo dire, preventivo nei confronti della salute. Sicuramente sì, e direi anche che adorare la tavola non deve voler dire fare male a se stessi, perché se diventa che adoro la tavola più di quello che adoro me stesso o di quello del bene che voglio a me stesso, chiaramente diventa un grosso problema, che è un problema molto tipico nella società di oggi. E chiaramente, Cristina, è arrivato il momento di fare delle scelte, cioè nel momento in cui si percepiscono, si vedono, si sentono i segni del cambiamento e si sa che parte di questo cambiamento è legato al proprio stile alimentare, direi che è arrivata nel momento giusto, nel posto giusto, Mangia con me, per cominciare a interrogarsi proprio sul come impostare questo cambiamento. Avere un partner, tra l'altro, che ha uno stile alimentare corretto aiuta moltissimo, quindi approfittiamone e cambiamo prima di aver creato ulteriori danni. Allora, oggi avremo modo anche di conoscere insieme al dottor Ongaro e ai nostri esperti dei supercibi, dottor Ongaro, possiamo chiamarli così, supercibi che ci aiutano ad invecchiare meno. Parliamo in fondo di medicina anti-aging, vogliamo dare una definizione di questa medicina che, un po' come i radicali liberi, leggiamo in continuazione sui giornali, di cui sentiamo parlare molto spesso, è stata anche ribattezzata medicina dei sani, le piace? Sì, non è del tutto sbagliato, perché credo che la definizione più corretta, anti-aging, è un termine un po', se vuoi, un po' arrogante, perché sembra che arriva una nuova medicina che ferma l'invecchiamento in tutti. Non è così, però è una medicina che sicuramente si orienta sul sano, vuole essere predittiva e preventiva. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire studiare le predisposizioni individuali in modo da intervenire prima che si sviluppino le malattie, per mantenere la persona nella salute migliore il più a lungo possibile. Quindi l'obiettivo non è la longevità estrema, non confondiamo la cosa, ma è la qualità della vita, è vivere gli anni previsti dal nostro programma biologico, possibilmente estenderlo al meglio possibile, ma soprattutto viverli tutti in piena salute. In questo sicuramente il mantenimento del peso ha un ruolo molto importante, cioè il confrontarsi con il peso raggiunto, il peso corporeo raggiunto alla fine dello sviluppo, attorno ai 18 anni, è un dato importante, perché non c'è nessuna ragione per aver accumulato 20 o 30 kg dai 18 ai 60 anni, e sicuramente attorno alla pancia gravitano tutta una serie di problemi metabolici di cui abbiamo parlato spesso, che sono dei fenomenali acceleratori dell'invecchiamento, insomma. Quindi chiedere anche agli ascoltatori questo, cioè quanto pesavano a 18 anni è sicuramente un punto di partenza interessante per capire quanto si sono spostati da un momento della loro vita in cui la salute era sicuramente ottimale. Quindi qual era il vostro peso ai 18 anni e qual è il vostro peso attuale a spanne? 800 24 00 24. Ci hanno raggiunto il professor Stefano Tirelli. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche a Filippo Ongaro. Si prepari, perché anch'io vorrei sapere il suo peso a 18 anni e il suo peso attuale. E ci ha raggiunto anche Stefano Polato. Ciao Stefano. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta, buongiorno. Pronti, perché parleremo di supercibi, parleremo naturalmente di questi alimenti, di questi prodotti che ci aiutano ad invecchiare meno, ma chiederemo naturalmente a Stefano Polato di aiutare a portare con delle ricette buone sulla tavola e al professor Tirelli di farci recuperare quell'energia che, per una serie di ragioni, anni compresi, forse sarà colpa anche di questi benedetti radicali liberi, ricordatevi il quiz, tende con gli anni, giorno dopo giorno, un po' a spegnersi. Ed eccomi qui, in un appartamento vuoto con un cane impagliato. Ah, e non è una lacrima che ho sulla guancia, è solo il soffitto che perde. Sì, i cambiamenti fanno paura, ma sono inevitabili. Sta a te tirarne fuori il meglio. Voglio dire, le occasioni non piovono dal cielo. Com'è cambiato il vostro peso da quando avevate 18 anni? 800 24 00 24. Oggi parliamo di supercibi insieme al dottor Ongaro, a Stefano Polato, al professor Tirelli. Supercibi per, non sbagliate, invecchiare meno, vero dottor Ongaro? Sì, per invecchiare meno e per, direi, soprattutto vivere meglio, sentirsi meglio, avere più energia, prendere meno peso, essere più in forma. Tiriamone fuori uno, iniziamo a giocare le nostre carte. Ma un super cibo che oggi viene discusso molto è il melograno. È un eccezionale antiossidante, molto ricco di antiossidanti, ma ha anche due funzioni complementari molto utili. Ha una proprietà antinfiammatoria ed è un antiglicante, cioè aiuta a ridurre in qualche modo gli zuccheri che circolano nel sangue. Molto potente anche nella forma di succo, che si trova oggi abbastanza diffusamente. Poco calorico, insomma, è fondamentalmente un vero super cibo. Stefano, a te tocca pensare a come farci preparare il melograno. Si aggiunge nelle insalate, si può ottenere il succo passando questi granelli chicchetti nello schiacciapatate. Sì. Io non vado oltre perché di più non so, ma sì, anche sul blog abbiamo già inserito qualche ricetta. Con il melograno e a mio avviso si abbina molto bene con il pesce. Avevamo inserito dei filetti di triglia appunto col succo di melograno e devo dire che hanno riscosso molto successo, quindi un buon abbinamento è proprio il succo di melograno oppure il melograno in chicchi, aggiungerlo durante la cottura di qualche filetto di pesce, preferibilmente pesce azzurro. Dottor Ongaro, il melograno è molto ricco anche di vitamina C. Sì, sono delle vitamine anti-invecchiamento? Beh, ci sono le vitamine che hanno grandi proprietà antiossidanti, diciamo che tutte le vitamine sono necessarie perché funzionano come cofattori, facilitatori delle reazioni biochimiche nelle nostre cellule, però ci sono alcune di queste vitamine che hanno delle proprietà antiossidanti più spiccate, la vitamina C è una di queste e quindi certamente il melograno ha una proprietà antiossidante in più, oltre alla presenza di altri antiossidanti, anche la vitamina C, senza dubbio. Dottor Ongaro, dopo il melograno? Dopo il melograno io inserirei dei cibi che fa un po' ridere chiamarli super cibi, che sono i fagioli. Sì. Quindi una cosa molto comune che fa parte della nostra tradizione, sì. A volte non occorre andare a cercare i super cibi dall'altra parte del mondo, ma perché? Perché sono effettivamente dei super cibi molto utili al discorso contenimento del peso e del grasso. La loro fibra è estremamente efficace nel rallentare l'assorbimento dei grassi e dello zucchero che dall'intestino entra in circolo, quindi forma una sorta di barriera che evita un assorbimento eccessivo di questi nutrienti, danno proteine di buona qualità che ci aiutano a sostenere i muscoli e pensa che perfino adesso ci sono degli studi che mostrano come un introito di fibra ad un introito di fibra elevato corrispondono al ridotto rischio di tumore al seno. Quindi vedi come ci sono tante buone ragioni per inserire questo che è effettivamente un vero super cibo, sì. A sentire tutte le cose che sa fare. Ma dottor Ongaro, quando lei dice aiutano a non assorbire troppi grassi, significa che se noi inseriamo una porzione di fagioli, anche lì mi fermo, porzione può essere un pochino meno di un pugnetto, in un pranzo un pochino generoso, ricco, ingrassiamo meno? Beh, è con buona probabilità sì, questo è uno dei motivi per cui magari lo affronteremo prima di Natale, per cui si suggerisce spesso di inserire un piatto di verdura e anche eventualmente di legumi prima di un pasto che sappiamo sarà un po' più abbondante, un po' più ricco di grassi e di zuccheri. Da un lato perché se ho mangiato quella porzione di alimenti sani avrò sicuramente lo stomaco un po' più pieno e tenderò a non esagerare con il resto, ma dall'altro c'è anche un effetto che avviene più tardi quando questi alimenti sono a livello dell'intestino che rallenta veramente l'entrata in circolo di quella componente di grassi e di zuccheri che magari è in eccesso. Stefano, c'è un segreto per cucinare bene i fagioli? Il segreto principale per cucinare i fagioli è non bollirli molto a lungo, nel senso che dobbiamo preferire appunto la cottura al vapore, così riusciamo ad ottenere un prodotto abbastanza integro e ancora meglio. Ad esempio la ricetta della pasta e fagioli, riuscire a non eliminare l'acqua che utilizziamo durante la cottura, ma far sì che nella pentola rimanga tutto quello che alla fine andremo a mangiare. Dottor professor Tirelli, è pronto? Quanto pesava a 18 anni lei? Ma pesavo sui 73 kg, essendo alto 1,80. Devo dire che sono abbastanza bravo, adesso peso 76 kg. No, perché il professor Tirelli ha molte ammiratrici, per questo volevo... Insomma, si è mantenuto così nel tempo? Cerchiamo di fare del nostro meglio, grazie per l'informazione. Non senta, no, mi scrivono proprio. Senta, professore, invece ritorniamo ai segni che, da cui siamo partiti per questa puntata dedicata all'alimentazione che ci aiuta a invecchiare meno. Erano il grasso perioculare, la stempiatura e questa famosa ruga che il dottor Ongaro ci ha detto a metà del lobo. Lei però può suggerirci un'altra lettura di questi segni? Sì, in generale la qualità della nostra salute è sempre collegata, oltre che ad una sana alimentazione, a sane abitudini di vita, anche ad una buona qualità del movimento. Il movimento è basilare, quindi una giusta forma di ginnastica è quella che prevede sia un intervento delle nostre capacità aerobiche, quindi un po' di corsa, un po' di ciclette, un po' di tapirulan, qualsiasi cosa che ci permetta di ossigenare meglio i tessuti, ed anche quelle forme di allungamento muscolare che coinvolgono sia le strutture dei muscoli e dei tendini in allungamento o rilassamento, ma anche in contrazione. I reni, per esempio, nella medicina cinese sono considerati i serbatoi delle nostre energie vitali. È come se fossero dei container all'interno dei quali vive e pulsa questo chi, questo ki, questo prana, che nelle diverse culture viene definito e che per noi viene chiamata ATP, adenosin trifosfato, che è l'energia che ci dà la forza fisica, la capacità di compiere il movimento. Il training energetico, per esempio, è un'ottima metodologia. Per mia esperienza è un metodo che ho codificato tanti anni fa e che permette di porre in ottima elasticizzazione i tessuti muscolari, ma al contempo anche di attivare i canali energetici dell'agopuntura. Questo è fondamentale. Quindi un massaggio profondo a due livelli, sì, a livello del muscolo che si tonifica, si allunga, e a livello dei canali che sono sotto, dove scorre l'energia. Sì, e di questi canali, proprio quelli dei reni, che hanno la loro sede poi principale in termini di zona, nella zona lombare, vengono proprio implementati. Io ho visto negli anni centinaia, migliaia di persone che hanno fatto esercizio di questo tipo. Sì. E assicuro il fatto che la qualità ottimale di questo movimento permette di mantenere al meglio le nostre situazioni fisiche ma anche psichiche. Quindi mi scusi, prima dei mercati, professor Tirelli, volevo dire della viabilità, sarà anche questo un segno di invecchiamento. Dottor Ongaro, venga col melograno. Questi sono un po' un'alternativa ai cinque tibetani, la buttiamo lì? Sì, possono essere complementari. Dai, allora mangia con me, con il professor Tirelli, e vi suggerisce questa sorta di allenamento, un'alternativa ai cinque tibetani. Abbiamo Mirko che ci chiama da Verona, 800 24 00 24. Buongiorno. Buongiorno, scusi un po' l'emozione. Le racconto un po', io alle 18 anni pesavo 70 kg. Sì. Oggi avevo belli capelli lunghi, oggi sono quasi pelato completamente, e peso 106 kg e da fare tanta attività fisica, praticamente sedentario, e quello che ho notato, la più grande differenza, che allora vivevo in maniera meno, più spensierata, problemi eccetera, tutto quanto, invece poi con l'arrivo dei figli diciamo sono diventato un po' più ansioso finché le cose non si risolvono. Mirko, da 70 a 106 kg, forse è il momento di darsi una mossa, di cambiare un po', che dice? Per questo vi ho chiamato. Ha fatto bene, dottor Ongaro, a Mirko possiamo dire di andare a vedere tutte, a riascoltarsi e anche leggere il materiale che può trovare sulla pagina di Mangia con me. Ma, dottor Ongaro, abbiamo una trentina di chili. Sì, sono 36 kg in più rispetto ad un potenziale peso forma che Mirko aveva da giovane, da ragazzo, e sono decisamente troppi, quindi Mirko è arrivato il momento di prendere la cosa sul serio e di invertire questa tendenza a partire da il cambio alimentare, ma sicuramente anche associando l'attività fisica, come consiglia il professor Tivelli, di cui, Nicoletta, sono gelosissimo perché hai detto che ha un sacco di ammiratrici. Beh, ma anche voi, non gli parlerò più, va bene, certo, è un problema nostro. Ma io non so come mai, ma mi è capitato, non vi ho cercato, siete tutte e tre belli, io ho scelto, sono molto invidiata. E ci quindi conoscevamo da anni, Nicoletta, abbiamo fatto tutto studiato. Tutto studiato, visto. Avete fatto, e io devo dire che distribuisco i complimenti che le vostre ammiratrici mi scrivono un po' per uno, perché è stata la volta sua, dottor Ongaro, poi a Stefano, e adesso tocca al professor Tirelli, che negli ultimi giorni forse è sbocciato. 800 24 00 24 ci chiama Laura da Milano. Buongiorno Laura, benvenuta. Buongiorno, grazie per farmi intervenire. Volevo dire questo: io ho la fortuna di essere ad oggi, ho 47 anni, invecchiata pochissimo o non invecchiata, come diceva prima il dottore. Stesso peso, pochissime rughe, cioè sono, non dico identica perché sarebbe, vabbè, un po' un'eresia, però chi mi vede dice proprio: non sei cambiata niente. Cioè sì, questo è invecchiata meno, e questa è una bella cosa. E questa è una bella cosa, tenendo presente che, vabbè, mangio bene, non amo i dolci, frutta, verdura, eccetera, quindi comunque sto attenta. Mi raccomando adesso di fare anche gli esercizi del nostro professor Tirelli, che si chiama professore lo stretching energetico. Training energetico. Volevo chiedere questo: non avendo avuto bimbi non sono cambiata per gravidanze, però adesso sono da un anno circa in menopausa, un po' in anticipo rispetto a quelle che dovrebbero essere l'età. Volevo chiedere, eccole, con la menopausa invecchierò insomma. Allora, sicuramente la pelle, dicono, in qualche modo in questo passaggio delicato cambia perché il collagene, che è quella sostanza che rende la pelle bella turgida, fresca, forse si diminuisce un po'. Ma per dare una risposta più mirata ai collageni di tutte le età, abbiamo in linea con noi il dottor Ivano Luppino. Buongiorno. Eccolo qua. Buongiorno. Dermatologo, plastica Milano e Catania, e responsabile nazionale del dipartimento laser dell'ISPLAD. Mangiamo bene, ci muoviamo, ma il collagene con gli anni tende un pochino a ridursi, e la nostra amica Laura diceva: io sono invecchiata meno, ma temo la menopausa. La menopausa è un momento in cui la pelle può pagare un po' lo scotto. Che cosa si può fare? Questo imputato, veramente, la nostra Laura ha ragione, anche perché durante quel passaggio particolare c'è una caduta della quantità di produzione di estrogeni che partecipano alla formazione del collagene, e quindi la prima cosa che succede è quell'aumento della lassità, soprattutto agli angoli del bordo del viso e quindi sulla zona mandibolare, dove si creeranno poi quelle inestetiche rughe che sono le rughe della marionetta. Quindi il collagene è veramente implicato. Però possiamo fare qualcosa. Possiamo fare tanto se cominciamo in giovane età per noi dermatologi sono i 30 anni, perché è lì che si cominciano a muovere i sistemi ormonali di controllo metabolico, e quindi se incominciamo a nutrire dall'esterno e dall'interno con sostanze che possono agire metabolicamente in modo molto forzato, come la vitamina C, come la vitamina E, come il licopene introdotto con gli integratori alimentari, come l'acido ialuronico, che è un vero e proprio zucchero di fondamento della pelle, il collagene ne troverà giovamento poi alla fine. Quindi prevenire prevenire è meglio che curare. Quando questo si deve curare sempre. E quando? Quando si deve curare, o dal punto di vista medico con quello che ho già poc'anzi ricordato, oppure con la tecnologia che ci aiuta tanto, facendoci utilizzare delle luci particolari che hanno una predisposizione di attacco proprio sulla molecola tridimensionale del collagene. Quindi Laura si rincuori, grazie al dottor Luppino per essere stato con grazie noi. A voi. Se vuole si fermi, perché abbiamo in linea Giovanni da Vicenza, che mi dicono dalla regia è pronto per rispondere al nostro quizzettone sui radicali liberi. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a lei. È invecchiato meno o è invecchiato di più? Purtroppo io sono invecchiato molto male, sto invecchiando male. Ma no, però ha risposto al quizzettone, mi hanno detto. Quindi, beh sì, sai, il corpo è una cosa, il cervello è un'altra. Allora, Giovanni, qual è? Beh, è la seconda risposta, adesso il termine medico che aveva usato il dottore non me lo ricordo. Però ha detto a parole sue, perché sennò non posso. Ah, praticamente è quella sostanza che è disciolta nel nostro corpo e che crea problemi, diciamo... Mm. I radicali liberi dicono che ossidano le cellule praticamente sì. Impediscono il buon trasporto. Dottor Ongaro, c'è o non c'è? Si è avvicinato? C'è, dai, ha detto poi la seconda, molecole instabili, sì. Allora, bravo. Prodotte, ricordiamo, dai mitocondri, Nicoletta, quindi i radicali liberi sono prodotti normalmente, è ovvio che ci siano. Sono è tutto scolti. Regolare. Solo che bisogna avere antiossidanti sufficienti a controbilanciarli. Grazie a tutti, ai miei tre magnifici ospiti, a voi che siete intervenuti, a domani.